gelosía, mas es la pasión mía cuando ti guardano gli altri io fremo perché la tua bellezza la voglio soltanto per me. No, non è la gelosia, so che tu sei sempre mia, so che mi strugge, io non so, io neppure cos'è. Ma non temere, non sono geloso di te. Io neppure cos'è, ma non temere, non sono geloso di te, ma non temere, non sono geloso di te.